Baby, il mondo sempre ragione, super mostri e super buoni, superate nuovi confini. Billy, siamo qua e aspettiamo, dacci il nostro chip quotidiano, siamo sempre ciò che mangiamo. Portati dietro te nel nuovo ordine, se no si sballa il target. Super stragi senza risposta, nuove nuove del super test, anni 80 grande richiesta. Sicuro che ti fai il pieno di super. Cos'è che non va? Cosa non va? Baby, voglio un super. Cos'è che non va? Cosa non va? Baby, io voglio un super. La cultura ti alza la voce, un miliardo di analfabeti per una cultura di pace. Cercati il tuo karma nel sito, fatti un clone maleducato, non lasciare a casa l'invito. Sotto la chimica, la capra lievita e si modifica bene. Baby, il mondo ha sempre ragione, puoi gonfiarlo di silicone, ma alla fine ha sempre ragione. Sicuro che mi fai il pieno di super. Cos'è che non va? Cosa non va? Baby, io voglio il super. Cos'è che non va? Cosa non va? Baby, io voglio il super. Di super, cos'è che non va? Cosa non va? Baby, io voglio super. Cos'è che non va? Cosa non va?